Mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Palinsesto traballante quando è? Quando è che, se che ce l'abbiamo oggi? Il 10 luglio 2007, caldo, non da deserto ancora, puntata numero 17 di Parla come scrivi. 17. Io sono Strelnik, accanto a me ci sono il sociologo e poi c'è Liv. Torniamo dopo una settimana di break, non perché siamo stati in vacanza, solo per un problema tecnico, come si dice in queste situazioni. E niente, torniamo, anche se torniamo un po' già con clima estivo. Cioè abbiamo molto l'occhio estivo, puntato molto. Alla vacanza, come sì. l'italiano medio che aspetta agosto per sbollire la rabbia annuale da lavoro. E quindi siamo tre italiani medi che aspettano le vacanze. Insomma, eh sì. Queste vacanze si stanno balcanizzando. La balcanizzazione c'è delle la vacanze. Balcanizzazione delle vacanze. E in questo caso in tutti e due i sensi del termine, del concetto di balcanizzazione. Mm. Eh sì. Primo senso è? Primo senso è questo. È semplicemente che si stanno frammentando sempre di più nel corso dell'anno. Ed ecco allora che d'agosto, cari italiani, sapete bene, che al massimo andate per una settimana, 10 giorni, e poi magari un pochettino a gennaio, un po' a Pasqua, prima di Natale, pure per l'ultimo dell'anno. Però nei mesi estivi, quegli anni 60, quelle 3 settimane che si partiva con la macchina, con la Vespa, si partiva la Vespa come Enzi, con la sposa di traverso sulla sella, con la sottana, bella, bellissimo. Insomma, mal di schiena e spaccare le ossa, però. Quindi c'è una balcanizzazione. Zuppa di cavolo ghiaccia portata ghiaccia. Sulla spiaggia. Pane frittata. Mi che la salmonellosi non esisteva agli anni 50. Ormai sono tutti morti salmonellosi. Comunque, perché la frittata al sole sobbolliva, ribolliva l'uovo, faceva un macello. Secondo me, sì. A parte questo. Comunque, quel boom c'è stato. Non c'è stato. Secondo me, non era un boom. Comunque. Un boom nel senso di bomba, esatto, cioè, la gente scopre un raudo era sì, come ora la cosa della cioè questa, il boom economico, no, degli anni 60, dicevete le vacanze, le prime vacanze di massa sembrano un benessere per tutti, c'era certo. la 500 c'è anche adesso 500 nuova e la 500 nuova ci hanno fatto un capo così spettacolone a Torino, uno speciale peggio delle Olimpiadi, anzi meglio delle Olimpiadi. Mamma mia. Ma di viaggiatori c'era questa settimana un bel dossierino sul Venerdì di Repubblica che parlava dei viaggiatori e dei viaggi raccontati anche dagli scrittori. Uno scrittore che abbiamo rammentato era Chatwin, che ha bazzicato il Val d'Arno ed è stato a vivere lì per un po' di tempo, ma non solo, si raccontava anche poi le solite cose, Lisbona raccontata da Tabucchi e robe varie, si rammentava anche Petrarca, il primo che dice che ha fatto un viaggio da viaggiatore, non il viaggio quello classico che era o da pellegrino o da mercenario. Sempre guerra, se, o la croce o la spada, signore. O la spada, sì, o i soldi. Comunque, questo... Tu come parti, Strednik? Da pellegrino o da mercenario? Oh, io parto sempre da disgraziato. Cioè... No, però il concetto di partire da pellegrino è sempre molto, molto meglio che partire per cose d'affari o cose di guerra. Essere pellegrini in fondo, andare in ricerca di una meta, mo spirituale o no. Sì, ma laddove il pellegrino ha le mete individuate, io non voglio averci mete individuate. Voglio sempre... averci un percorso. Il percorso del pellegrino è ben delimitato, non è. Però in realtà il pellegrino. Il concetto del pellegrinaggio è importante perché oltre alla meta è anche l'andare che è fondamentale, perché è il viaggio in sé, anche la fatica. Che dà una certa fortificazione all'animo. Sempre Petrarca raccontava l'ascesa al Monte Ventoso, quindi questa sofferenza e passione di andare, di scalare la montagna in questa roba di pellegrinaggio che è umano, mistico, fisico, questa sofferenza. Sì, sì, quindi sì. In questo senso è meglio essere pellegrini che turisti globali, diciamo, quelli da tour operator, quel da viaggio organizzato. Io sono un viandante, un pellegrino viandante. Mi piace perché c'ha l'implicazione e religiosa. Una cosa che sempre ho letto su questo articolo interessante di Repubblica, che consigliava di partire per una città con una vecchia guida magari di 50-100 anni prima turistica, oltre alla Lone Planet targata 2007, prendiamocene anche una magari degli anni 60, vediamo com'è cambiata ad esempio Praga, com'è cambiata ad esempio Amsterdam negli anni. E fare questo tipo di viaggio, visitiamo una città con cose vecchie, visitiamo una città magari avendo letto prima qualche libro che ci porta un po'. Chissà dove va a finire. Vediamo che magari che troiai che hanno fatto negli ultimi 50 anni. Anche, certo, anche questo. Magari in quella guida c'era scritto... O delle cose belle che hanno fatto durante i 50 anni. Però, insomma, state attenti, si può fare una cosa di genere, lo dico anche ai radio spettatori, perché se in quella guida c'era scritto andate a mangiare da Gino, lì dentro invece vi trovavo un parrucchiere e tornare fuori come gli orti, oppure ma poi c'è, se anche, va bene. C'è anche il rischio opposto, perché in un pellegrinaggio mio e di Strellick di qualche anno fa siamo stati mi piace dire pellegrinaggio, un viaggio. No, pellegrinaggio nel senso di pellegrino, di andare in questo senso, mi piace di più. Vabbè, che il viaggiatore. Sì, ma un pellegrinaggio, vabbè, comunque siamo andati. Com'è che diceva il teleserto? Si parte da no, viaggiatori, non da turisti. Sì, si parte sempre da viaggiatori. Sempre dai viaggiatori, quindi i viaggiatori pellegrini ci siamo. In un rampo, voglio dire così, lo posso dire, saranno fatti miei, voglio dire pellegrino questa sera. Ma te vado pellegrino? Io vado pellegrino. Io no. In senso... Io vado a Brandano. Oh, dicevo che in un viaggio slash pellegrinaggio mio di Strelick di qualche tempo fa, siamo stati in realtà... Volevamo fare i fricchettoni, cioè noi partiamo senza meta, con la guida alla mano, vagabondiamo, peregriniamo. In realtà poi ti trovi anche qui immerso nella globalizzazione, perché poi... Sì, però la meta si è decisa noi. Sì, cioè, la meta si è decisa noi, però comunque sia abbiamo scelto questa guida che è storica da Lune Planet, che è mondiale, e ci siamo accorti che tutti i viaggiatori turisti che stavano, mi sembra, eravamo a Porto, sì, non sbaglio, stavano tutti lì a mangiare. Che no, la guida diceva... non erano tutti lì, erano quelli che erano lì, c'avevano la Lonely Planet, e quindi eravamo no, tutti... è diverso da dire che tutti erano lì, tutti quelli che avevano le Planet erano lì, non tutti si sa, avevano questo letto. Non si sa, perché chi lo sa se... tutti quelli che erano lì avevano le Planet, questo si può dire, questo è un'affermazione che si può dire, solo possiamo dire questo. Tutti però è interessante questa cosa e quando... tutti siamo stati vittime in realtà, perché era il primo della lista degli ristorantini, dava buon prezzo, era molto caratteristico, in realtà puzzava come le bestie. Io ci stavo benissimo. Lui sta benissimo. Io sono dovuta scappare perché in quel vicoletto è stato un puzzo di pesce. Ma no, nel vicoletto prima era, poi non si era sul vicoletto proprio sul. Che invece profumava di rose. Vabbè, ma che te ne frega? E ci hanno dato una cosa da mangiare terribile che io. Come si chiamava? Vabbè, come si chiamava? Era una sorta di hamburger portoghese. Però immerso nella cipolla in una ciotola tipo da latte, la tazza di latte, con questo asciughe, questo hamburger in mezzo, questo sughetto di cipolla, non così. Era hamburger, un puzzo di cipolla, era una cosa. Vabbè, io... la cucina portoghese è piena di cipolla, quello è un piatto tipico portoghese. Sì, sì, sì, e sì, adesso non mi ricordo com'era, preferivo il bacalao portoghese alla... Sì, sì, sì. Comunque, ritorniamo alle ferie, alle ferie, ferie spezzettate. Ah, le ferie spezzettate, sì. E l'altro... l'altro significato di balcanizzazione, che si va a fare le ferie dei Balcani, che spende meno. Però non è questo quello corretto. Una volta, poi in realtà adesso insomma i Balcani costano anche un po' di più. Noi che ci affacciamo sull'Adriatico siamo i primi, siamo stati anche a invadere i Balcani, perché cost to cost facciamo presto. Quindi all'inizio costava molto meno un ombrellone una settimana, che ne so, a Spato, piuttosto che, per dire, la costa adriatica, quindi andavi e partivi. Un'ora e mezza di traghetto sei lì. Sì. Adesso giustamente loro si sono un po' svegliati e... Anche in Croazia è bello. Anche in Croazia. In Croazia è bello. Andate in Croazia. Ecco, posso dare un ennesimo consiglio ai Radio Web spettatori? Posso, sì, grazie. Ma prego. No, se andate in Croazia, se non avete una lira e non avete soldi nemmeno per il costume, andate in Croazia. Perché lì sono tutti nudi. Cioè non esistono spiagge nudisti, sono tutte spiagge nudisti. Sì? Tutti nudi. Però è bellissimo perché, cioè, ne parlo come se l'avessi fatta sta cosa. No, in realtà io non l'ho fatta, non mi sono... Ma te ci sei mai stato in Croazia? Sì, ci sono stato, però mi vergognavo anche lì, erano tutti nudi tranne me. Però ci si sta bene anche nudi, perché è così bello questo panorama, veramente bello. Ci sono delfini che ti saltano in fondo, non proprio davanti, in lontananza, però li si possono vedere. Poi ci sono tutte queste spiaggettine, avevo ricevuto un canottino, sarebbe stato carino girare, e invece non ce l'avevo perché sono sveato anch'io, insomma. E lì veramente erano tutti quanti nudi, no? Cioè, a un certo punto arrivò un omino proprio sulla cinquantina, sessantina, con lo windsurf, era tutto nudo, ma arrivavo davanti, ma guarda, bruttissimo, una scena drammatica. Era meglio vedere le donne nude che gli uomini nudi. Sì, sì. Questo no, sì. Ci dice Hans che abbiamo un problema tecnico. E dalla chat ce lo segnalano anche. Che stiamo risolvendo. Noi andiamo avanti, adesso vediamo cosa succede. Sì, no, però che cos'è che ci dicevano? Che non si sentiva? Non ci sentono molto bene. Diciamolo. Stiamo aspettando un feedback per questa cosa. Un attimino che arriviamo anche noi. Ok? Sì, ma vabbè, ma si può dire che succede? Cioè, cosa succede? Non si sentono le nostre voci, non si sente... Sì, probabilmente non ci stiamo vedendo. Ci fanno un'inchiesta per vedere se ci sentiamo. Chissà chi sarà sto Paolino. Chi sarà? Chi sarà Paolino? Perché chi c'è? Paolino? Ah, sì, sto Paolino, sì, chissà sì, chi sì. sarà. Ma chi è Paolino, quello che della chat? Sì. Allora, sì, c'è sì. un Paolino in chat, diciamolo, cioè, si può dire Paolino in chat, no? Qua per dirvi anche che la canzone che avete sentito all'inizio, la gigantesca scritta Coop, è cantata da Le Luci della Centrale Elettrica, un gruppo che abbiamo scoperto via blog, perché abbiamo scoperto prima il blog di questi di questo gruppo, e l'indirizzo è leLuciDellaCentraleElettrica.blogspot.com. Ci sono diversi scritti anche molto molto interessanti, magari dopo possiamo anche leggerne qualcuno. Delle Luci della Città Elettrica vi facciamo sentire adesso, in attesa che Hans ci dica qualcosa, un'altra canzone che si chiama Nei Garage a Milano. Vai Hans! State ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Semafori cominciavano a lampeggiare arancioni, mi puoi spiegare il colore acciaio del cielo, le sfumature di grigio di cui ti parlavo, del cielo berlusconiano di Milano. Milano era veleno, Milano era veleno, e il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose, tifosi violenti, arruoliamo brigatisti, nei bar deserti sui navigli. Staremo ad abbaiare a questo cielo da rottamare, al cielo su Berlino. Io lavoro in nero. Milano era veleno, Milano era veleno, Milano era veleno. E il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose. Milano da bere, Milano da bere, tifosi violenti sparano ai satelliti intelligenti, dai bar deserti sui navigli. Oh. curiosità ci divorava. La curiosità ci divorava. I terroni, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi gli manca la casa, chi vive da solo. Nei garage a Milano. Ancora le luci della centrale elettrica, sono le 22.59, questa è la puntata numero 17 di Parla come scrivi. Allora siete sulle nostre frequenze binarie che avete visto stanno saltellando un po' per l'orario estivo. Noi ci saremo ancora forse la prossima settimana, poi decideremo quale sarà il periodo di pausa, il periodo di pausa estivo per riprendere poi a settembre. Vediamo anche un po' qui la casa produttrice cosa ci dice. Esatto, dobbiamo vedere se abbiamo di nuovo la possibilità, però penso che le possibilità ci sia, almeno per ora ci sono abbastanza buone. E noi volevamo leggervi a questo punto qui un pezzo dal blog delle luci della centrale elettrica.blogspot.com, un post che si chiama Negli inceneritori, e su per giù dice così: campo di concentramento del cervello, due spruzze di Valium, bava e vomito come dentifricio che ti danno il buongiorno. Sacco e Vanzetti che si rigirano sulle sedie elettriche, grazie per avermi rovinato la vita. Con i ventilatori addosso ti scrivo. E hai pensato a me quando hai visto uno zuccherificio, i cormorani che girano sulle vostre teste e i cocoriti nei negozi, e ti sembra che crescono scarpe e vestiti sugli alberi. Con navigatore satellitare scopro dove sei a mangiare. Hanno tantissimi dipendenti perché ognuno fa volentieri la metà di quanto potrebbe. E mi dici che un motoscafo ha fatto a pezzi un tizio. E finalmente abbiamo perso il conto delle volte che ci siamo visti. Ti sei ferita, ma hai ancora 99 cerotti, non c'è da preoccuparsi. Per le corde vocali infiammate, per stare zitto per una settimana e confondere i nomi propri delle vite precedenti. Disadattati. È peggio la Mussolini di suo nonno, Negli inceneritori. Un libro di ricette a base di olio di ricino, le classi differenziali, i bambini e noi di Luigi Comencini, la chitarra in bianco e nero di Neil Young in Dead Man, delinquenti nelle foto sui giornali, scappano quando vogliono. Scappano quando vengono inseguiti. Scappano quando vengono inseguiti, poi perdono le ruote. Ti saluto quando ti vedo passare, ma ho i vetri oscurati e non mi riconosci. Faremo un figlio e lo chiameremo Mitra. Sono alcolisti da quattro generazioni. La maggioranza silenziosa, la maggioranza rompicazzo. Quando mi hai chiesto, ma tu ti facevi. questo era negli inceneritori, tratto da un post tratto da Le luci della centrale elettrica.blogspot.com, di cui abbiamo sentito stasera queste due canzoni, Nei garage a Milano e La gigantesca scritta Coop. E allora noi andiamo avanti, andiamo avanti nella trasmissione. Abbiamo già parlato di vacanze che si spezzettano, di ragioni economiche che le obbligano, cioè le obbligano a questa scelta, perché sì, perché purtroppo quest'anno in vacanza ci vanno solamente una persona su due, perché sì, il governo di sinistra ha messo troppe tasse. È vero. Notizia di apertura di una settimana fa di Studio Aperto. Cioè, ora può darsi anche sia vero, ma detta da loro hanno detto magari 3 anni fa ci andava 8 italiani su 10. Allora, ora dopo 2 anni uno su 2. Sociologo, uno su 2 mi sembra una buona media comunque. Uno su 2. Perché probabilmente gli altri stanno lavorando per quegli altri. Sì. Perché ovviamente non è che tutti vanno in vacanza a agosto, ci sono una marea di italiani che lavorano, chi c'ha i bar, chi c'ha gli hotel, sì, cioè, quindi camerieri. Quindi se io vado in vacanza, qualcuno che mi dà da mangiare ce ne sta. Quindi forse a tempo determinato. Quel 50% di persone sono quelle che stanno servendo gli altri che vanno in vacanza. O chi non ha le ferie. O chi non ha le ferie. O chi magari se ne sbatte di andare a agosto, perché magari cioè, un medico a agosto sta a ricucire il cuore di qualcuno, non ci va. Uno spazzino comunque deve spazzare e non ci va. Mica tutti vanno in vacanza a agosto. Quindi uno su due mi sembra tantissimo. Ma sì, dai, non so come sa perché ti la dibutto, sì, una spiegazione da bar, da filosofia da bar. Perché uno su due significa che se siamo due, uno dei due non ci va, e quindi è l'uno contro uno. C'è una miseria. Capito? Ora siamo io e te in una stanza, e si sa che per la statistica così, no? Uno dei due non andrà in vacanza. Dice a me. E quello tu dice, ma speriamo tu sia te. E a questo, capito? Questa cosa lì ti porta. Ascolta una cosa, ma se fosse vera sta cosa? Sarebbe... O tu vabbè, o vuoi un pazzo? Su tre poi quante ce ne va? Secondo la statistica. Io a matematica faccio schifo. 3.5. Moni che fa? Non ci fa a me a male. Ascolta, si fa una cosa. Si fa io te pazza. No, si lascia a casa Moni. Su tre non ci sta. No, no, invece ci si entra, perché anche il prossimo anno Moni arriva a casa. Live. Monia è una ragazza che sta qua vicino, che ci ascolta. Con sì. Sì, noi parliamo di tanti personaggi che sono comparsi. Per esempio Martina. Basta Martina. Sociologo. Sì, come vedete sto... Sociologo, vai in vacanza? Vado in vacanza. Stregli, che tu vai in vacanza? Sì. Io una volta... Una volta. Tu vai in vacanza? Sì. Allora. Siamo fuori statistica. Cioè, quindi o siamo tutti, non lo so. Esatto. Il centro-sinistra non ci ha colpito, che dobbiamo dire? No, siamo messi. Andiamo male. In vacanza, tutte e tre, percentuale fallitissima. Io una volta andai in vacanza. Sbagliai anno, sì. No. Mi sembrava di essere negli anni 60. Ma che avevi fumato? No, era un modo di dire. Era un modo per... Volevo introdurre questa storia. Ormai siamo grandicelli. Insomma, io ho 53 anni, quindi sono già malinconico. Racconto le storie di quando si era giovane. Quella di Londra? Quella di Londra? No, non c'entra nulla. No, no. Quella... Di quella vacanza, a metà degli anni 90. E invece erano gli anni 60. Cioè, chi... No, perché si partì con delle vespine molto carine. Questi cinquantini. I cinquantini degli anni 60. Sì, ma dove andavi al cinquantino di Sassa? Si partì. No, si è andato dove si poteva arrivare. Però ecco, non ero con la mia fidanzata, con le gambe di traverso di questa Vespa. Ma c'era un tuo amico dietro. Ma c'era un mio amico. No, eravamo due vespine, non era dietro a me. Anche se la sera, quando c'ho la sua vespina, non funzionava bene, prendevamo solo la mia, mi ricordo questa cosa qui. Ed era molto anni 60 e non avevamo nemmeno il casco, potevamo viaggiare senza casco. Quando mi fermarono dei carabinieri. E lì vaglielo a spiegare che sono gli anni 60. Sì, è molto a Marcord questa cosa, Liv. Sì. Ma a proposito di Marcord, noi parliamo di cose serie, noi facciamo, o sappiamo, senza falsa modestia, che noi facciamo tendenza. Ma facciamo altissima tendenza. Sì. Sì. Ricordate il sondaggio sui Petroni che ci hanno ricopiato? Su non so, sull'Espresso ci hanno ricopiato, sul Verity Fair ci ha copiato anche Gad, che anche lui diceva: perché non te ne torni in Africa? La stessa cosa che diceva uno di Petroni, ma tu non devi andare. Ah, Gad Lerner aveva scritto una cosa dicendo sì, in maniera molto più. Ci ha copiato anche Repubblica, perché noi abbiamo fatto una puntata fantastica sull'orso abruzzese marsicano. Oh, oh sì, Repubblica sì, ci ha fatto uno specialone, cioè ci copiano, siamo dei. Sì, sì, sì. Plagiati. Siamo plagiati. Siamo sì, un sì, pozzo sì, di idee. Ma lo sai, di grandi, guarda, cicote, faccio partire un episodio. Un episodio, cioè. Guarda, c'è una cosa banale, cioè camminavo l'altra sera per una di queste stradine vicino al vagonaccio e c'erano due muratori che lavoravano alla strada, due marocchini, cioè ero lì e dicevo, pensavo dentro di me, ma catrame 19, come andrà? E lì ero lì, passeggiavo lì per la strada e c'era questo marocchino, abbiamo parlato un po' di italiano, sentivo, diceva quell'altro. Ero lì a raccontare le bue per terra. Sì, sì, sì. Ci vuole più catrame! Ci vuole! Io passate lì, ragazzi. Ma proprio anche i marocchini, anche i rumeni, stranunitari, ci vogliono di più. Ci vogliono di più. Davvero, guarda. Però sai che più di catrame 19 non si può, eh. È il condensato massimo di nicotina che si può permettere nelle sigarette. 18 sarebbe condensato massimo. Sono delle sigarette giapponesi che fumava molto probabilmente. Il marocchino. A proposito, adesso posso aprire l'angolo sociale di questa cosa, perché questa settimana io, adesso parliamo di una cosa seria a proposito di extracomunitari. Posso fare? Prego. Ecco, posso fare un segno da angolo sociale? Sì. Ecco, un segno okay. Chiaramente nell'accezione del nostro amico Roland Barthes. Io ho incrociato le gambe, eccolo qua. Questo è un segno dell'angolo del sociale. Cioè, sono un sociologo adesso, con le gambe incrociate. Cioè, un sociologo con la gamba incrociata, come sto adesso ora. Non sarebbe un atteggiamento di chiusura, noi comunicativi, diciamo. No, sarebbe... Cioè, questo fa molto angolo da sociale. Eccoci qua. Ok, va. Gambe accavallate. Okay. Braccia incrociate. No, se incroci è un segno veramente di chiusura, adesso no, che sto parlando e sembra che non ti interessa quello che dico. E quindi potrei prendere... Invece io sono lì con atteggiamento aperto... Non ho le braccia, allora abbasso io ho le braccia appoggiate sullo schienale, questo è da schifoso, toccarsi la pancia da base di stare. C'è Strelli che si sta la mia massima diciamo apertura verso di voi, io vi apro le braccia adesso, se vi faccio vedere anche l'ascelle è il massimo dell'apertura di fiducia. Non lo faccio perché l'estetista. Allora facciamo tutta la puntata a braccia aperte così. Dai. Io no, perché c'ho anche voi a casa, come si dice in televisione. Allargate le braccia. Si dovrebbe fare un esercizio di ipnosi con i radio spettatori. Sì, lo facciamo, si può proprio fare. Io direi che va fatto. Comunque, però prima... io dicevo questa cosa del sociale, perché c'è chi invece le vacanze veramente le deve fare forzate, non sono affatto vacanze. Questa settimana mi è capitato di parlare ancora con questa cosa, un termine bruttissimo, con una badante. Qui già perché le parole sono importanti, quindi chi ha coniato questo termine dovrebbe già essere badante, bruttissimo. Riflettevo, ho conosciuto questa donna che è una donna fantastica, che veramente si fa il culo, è a viaggio forzato in Italia qui e non può andare via, quindi è veramente un viaggio parte della speranza, parte forzato. Sono donne come queste che sollevano veramente le sorti di famiglie italiane, perché danno un contributo morale, tecnico a molte famiglie, e sono invece costrette ad essere rinchiuse veramente in Italia e non possono andare via e non si possono muovere e far vedere, altrimenti vengono cacciate. E questa sorta di viaggio è drammatico, questi fanno viaggi della speranza pazzeschi, arrivano dall'est, arrivano da parti della Russia eccetera, spendono cifre abnormi che un italiano medio ci va un 15 giorni alle Bahamas, vengono qui a farsi il culo. 5.000 euro. 4-5.000 euro, un viaggio ad esempio dalla Russia per arrivare qui in pullman, perché non c'è nemmeno la possibilità di prendere un aereo, perché non c'è i documenti, un treno, eccetera, eccetera. Quindi fai questi viaggi della speranza. E la cosa atroce che vengono condannate, ci sono leggi che invece di santificare queste donne, che dovrebbero essere santificate perché vengono in Italia per pochi soldi, si occupano di persone che sono sofferenti, evitano che queste persone vengano chiuse in ospedali o meglio in ospizio, in case di cura che sarebbero deleterie per persone che stanno male o sole, e la legge Bossi-Fillimart o altri che bisognerebbe fare statue, cioè dare un passaporto ad honorem a queste persone, altro che tenerle rinchiuse così. La storia di questa persona era veramente triste e drammatica. Possiamo dire alcune cose, che era una giovane donna di 35 anni. Nonostante questo, molto, molto gentile e solare. Gentile e solare, disponibile veramente con il mondo, non solo con la persona che stava male. È in Italia da 2 anni, dopo aver pagato più di 5.000 euro per arrivare qui. Il figlio di 11 anni è ovviamente in Russia di vicino, il marito addirittura è in Spagna, quindi non si vedono da 2 anni. Qui sono queste famiglie veramente di viaggi estremi che non ce la fanno, e noi condanniamo queste persone a veramente a non poter viaggiare in senso positivo, cioè ricongiungersi con i familiari, ed è uno sfruttamento, penso, legalizzato a tutti gli effetti. Esatto, sì. A tutti gli effetti. Le badanti. Chissà chi per la prima volta avrà scritto da qualche parte badanti, la parola badanti. Sì. C'è qualcuno che si è interrogato in Italia relativamente a che cosa sono le badanti. Forse è un termine già usato. Era già utilizzato, però per esempio nel dizionario fino a qualche anno fa non c'era. In realtà è un participio, cioè da badare, badare, badante, colei che bada, perché in realtà poi il problema qual è? Non le puoi chiamare come sono in realtà delle infermiere, molte volte sono molto molto di più, perché le badanti magari vengono viste in realtà semplicemente come simil cameriere accessoriate, diciamo. Sono persone che in realtà vengono in Italia ed hanno lauree, sono altamente specializzati, non solo sono badanti, magari sono medici, infermiere, addirittura sono ginecologi che vengono qui, delle cose veramente pazzesche. Esatto. Allora noi facciamo così, dopo questa cosa ci tenevamo a dirlo, questi viaggi sono sì, viaggi della vacanza o i pellegrinaggi o quello che volete, ma sono anche questi. E come ha già detto qualcuno, queste persone qui, quelle che camminano, quelle che si spostano, sono gli invincibili. Noi facciamo che mettiamo una canzone per andare avanti in questa puntata numero 17 e mettiamo L'unica certezza è il sole dei Capuleti. In questo paese di segreti, in questo paese pieno di preti, l'unica certezza è il sole quando c'è. In questo paese di ruffiani, di gesti banali e fatti strani, l'unica certezza è il sole quando c'è. Certezza è il sole quando c'è. In questo paese di miracoli si gira in tondo come a Monopoli, e l'unica certezza è il sole quando c'è. L'unica certezza è il sole quando c'è. Ed io né carne né pesce, né zucchero né sale, né sabbia né mare, sabbia né mare, né bene né male. Allora, eccoci qui. Rieccoci. Risposta ai nostri quesiti. Termine badante. Sì. Chi ci risponde se non l'Accademia della Crusca? Che vai. Ufficialmente loro sono i datori di linguaggio italiano. L'Accademia ci dice che... I certificatori. I validatori. Badante, termine del 2002, neutro singolare. Prima attestazione 1989. Abito d'uso lingua comune. La definizione è persona che si prende cura, soprattutto presso privati, di anziani o disabili. Il termine, documentato inizialmente nell'ambito burocratico, è stato ripreso e utilizzato più largamente per indicare persone, nella maggior parte dei casi immigrate, che si occupano di anziani o disabili, soprattutto presso privati. Ultimamente è entrato nella legge di sanatoria per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Ci sono citati diversi esempi, cioè un articolo del 2002 in cui si parlava appunto della Bossi Fini, in cui il termine badante è entrato in maniera spropositata, ma una cosa invece interessante è che una volta il termine badante era utilizzato per chi accudiva gli animali, e soprattutto insomma, i greggi, le oche, eccetera, eccetera. Adesso invece è entrato appunto in uso comune anche a livello burocratico. Però nel dizionario fino a qualche anno fa il termine badante non c'era. Non c'era. E chi l'avrà coniato questo? Chissà. Dei dubbi, cioè delle. Io lo so. Chi è? Chi sei io? Apriamo anche i pulsanti. Sì. Io lo so. Lance, fatta fare questo effettino. Esatto. No. Guarda, anzi, fagli un po' lì che si accende la sigaretta. Lo so, perché una persona che ho conosciuto, adesso non vi dico il nome perché magari, non ve lo dico. Per la privacy, per la privacy, sì. Però è una persona che ho conosciuto che tempo fa si è occupato, è stato incaricato per il Ministero degli Esteri, se non sbaglio, non mi ricordo se era il welfare ai tempi, di fare uno studio sociale su... Sociale? Mi guardi male, sociologo. Non era così, sì. Era un po' così. Però non era il sociologo, diciamo, non era, perché poi se no, non era il nostro sociologo. No, era qualcun altro. Era, lo sa, lì, oppure non lo sa chi è questa persona. No, perché come ho detto, ha premuto il pulsante. Lei ha perso. Guardi. Come ho detto sociale, mi ha guardato male, ho sbagliato a dire no, una cosa. No, perché non ha risposto. Lei prima lascia o raddoppia intanto? Lascia. Ha lasciato, comunque sia perché ha sbagliato. Okay. Perché non ha detto il nome, ma chi sarà stato? Potrei fare l'imitazione di Mike Buongiorno? No, per scherzo. Che poi proprio non mi viene minimamente. Sì, ho capito. Che cosa ha fatto questo qui? No, questo qua ha ha detto una cosa, ha detto che la parola badanti non c'era. Non c'era prima di questo video che è stato finanziato, sì, un video, è stato finanziato dal Ministero del Welfare ed è stato finanziato al nostro caro amico Gianluca. Gianluca. Dai, diciamo. Oh. Che abbiamo, noi lo lamentiamo, lo ricordiamo, sì, abbiamo incontrato prima in radio e poi live. Dal vivo. Sì, live. Sì, sì, abbiamo, sì, incontrato Gianluca live, che tra l'altro è un grandissimo viaggiatore. Sì, sì. Infatti il nesso era questo, ma che il nesso era questo? Il nesso era qui, il link, il collegamento stava qui, non dire chi ha coniato il termine badante, sarà uno che viaggia molto, visto che poi le badanti sono quasi tutte persone che sono costrette a fare, sì, questo, sì, sì. È una persona che viaggia molto ed è, sì, perché raggiunge spesso un'altra cara persona che noi incontriamo spesso nella nostra cara chat. E quindi sentite un po' in che è il compagnetto di Giulia. Compagnetto, sì, va bene. Rodotà, stai tranquillo, sì. Le stiamo sfacendo tutte le leggi sulle privacy, tutte. Rodotà ci apre il culo, ragazzi. Rodotà sensibili, il culo si può dire, ok? Oh, non facciamo, non si può dire. Allora, mo mi sono incazzata. Ma culo si può dire. Anche perché io, Stregic, sì, cioè, cosa fai? Mi fai la velina? Mi censuri che io dico culo? No, tu dici sera... nella privacy, sei sputtanato tutto. Ma scusa, non sarà consenziente, no, su questa cosa qui, cioè ci no, sì, sì, no, e ha fatto questo video. Chi è? Va a sapere chi è. No, e ha fatto questo video bellissimo che parlava proprio di badanti. Vorrei leccar culo, sì. No, no, chi dice? Culo non so dire. In cui questo video, che si intitolava proprio badanti con un punto interrogativo, perché iniziava con Giulia che sfogliava questo dizionario e che non leggeva, non trovava scritta la parola badante e cominciava a domandarsi cosa saranno le badanti. Ed ecco che il nostro caro Gianluca ha realizzato questo video molto bello, che è proprio, beh, diciamoci, un'indagine sociale, sì, è un video, una, diciamo così, un'opera di visual sociology, cioè racconta le badanti. Le badanti con la nonna, e poi racconta le amiche delle badanti, e poi la partenza. Alla fine di questo video c'è la partenza verso la Romania e se ne tornano là. Ci sono dei segni molto carini. Calzolai, toglimi le mani di dosso, non mi fare i grattini. Non sto facendo... guarda, no, non sto facendo questa grattini. Sera finisce male, se me lo smetti. Vabbè. No, lanciamo un sondaggio. No, sì. No, lanciamo il sondaggio. Grattini sì o grattini no? Aspetta. Strelli, risposta, sì o no? Grattini fa... No, non li sopporto. No, sociologo? Scusate tanto. Grattini... No, sì o no? Grattini sì! Grattini c'è al 100%. Sì, per tutta la vita. Sì, per tutta la vita. Più grattini per tutti. Grattini no mai! Sono una cosa odiosissima. Anch'io, io sono d'accordo. Grattini io fonderò no. Anche un partito per la realizzazione dei grattini. Perché sembra che chi non si fa fare i grattini o non li fa è una persona frigida. Invece no. Invece no. Addirittura. No. C'è la libertà di espressione, la libertà anche di grattini, gesticolazione e di movimento. Per cui a chi non piace i grattini, mi dovete lasciare stare. Cioè, del comitato pro grattini, fammi un grattino, fa grattati da solo, mettiti un'auto all'antipulci, fai qualcosa, non mi rompere i coglioni, guai a chi mi tocca. Allora, le nostre menti si sono tenebrate su questo dilemma, che però è giustissimo, io sono un anti-grattini della primora. È snervante, vai a cena con qualcuno, gli amici si mettono là a spuciarti tutta la sera, tu. Odioso. A grattarti. Com'è? È odioso! Chi ti fa i grattini odioso? Odioso. No, allora, aspetta, perché Hans ci dice se hai trovato un gancio. Mm. Noi, i grattini sono odiosi per me, lì, per te no. Noi andiamo a sentirci gli odio su tela. Oh. Tenebra, reggeggiante, crossover reggeggiante. Vai Hans! sinfonie. Dirigono i miei sensi che eseguono sfocate follie, distorsioni, gravi verità che sento solo raccontare. Brucio la memoria, forse è ora di cambiare. Per questo sarò diverso dal giorno che poi seguirà. Sconvolto di per questo sarò diverso dal giorno che poi seguirà. Sento solo raccontare, brucio la memoria, forse è ora di cambiare. Per questo sarò diverso dal giorno che poi seguirà. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. State ascoltando Radio Catrame 19, la radio... Enzo non azzecca tanto... Enzo, non azzecchi troppo i mixaggi. Sai perché? Perché ti stai facendo fare un grattino. Grande Enzo! Ecco, allora, bellissimo. Falla finita, perché abbiamo capito che Enzo è... pro grattini, io Liv, allora, anzi, sociologo Enzo sono pro grattini, sì. Grattini, 50 e io Liv invece e 50. Siamo 50 e 50, no, 50 e 50 come Enzo, io e te siamo a pazzo, no, no, voi rimanete a casa, non è detto, perché gli stessi che si fanno fare, si potrebbe anche, potrebbero andare anche un pro grattini e un contro grattini. Se i due gruppi si intersecano su tutto ciò, che succede? Succede? Se un pro grattini incontra un contro grattini e magari si piacciono, che succede? Io dico che va a finire. Oh mamma mia, questo è un casino. Per me è da finire malissimo. Però secondo voi, ecco la domanda, cioè uno dei grandi segreti dell'amore, chi lo sa? Cosa ci fa incontrare? Chi lo sa che le coppie, entrambe, non siano dello stesso 50%? Secondo me tutte le coppie o stanno da una parte o dall'altra, perché non si può vivere insieme con una ragazza pro grattini ed un ragazzo anti grattini. Io sono d'accordo, cioè non può. Per me è successo così: quando ho incontrato un pro grattini è finita male, perché io, uno che mi stava tutto è insopportabile. Sembro un po' Alberoni, uguale. Vabbè, stasera si beveva anche l'acqua, ragazzi, è incredibile. Quando si beve l'acqua vengono fuori delle cose pazzesche. Sarà che la nostra acqua viene su, che è una bellezza dalle montagne. Quando arriva su da noi però arriva, per la pressione sembra orzata o latte più, eh? E forse in quell'acqua. Latte più. Guarda che il latte più... Adesso papà, mi dà degli agganci, questo Strelink, guarda, gli farei un grattino. No, siamo contro. Mi viene voglia di fargli una grattatella. Siamo contro. Siamo contrissimi. O se mi vedo farmi poi, grattini. Allora, cioè, ma no, io che dicevi di grattini? No, aspetta, sì, grattini poi. Ma no, Dio. Che poi ti fai d'estate nella schiena mezza sudata, queste cose. Sei andato al mare, ti stai spellando, viene via la pelle, i peli, poi specialmente su, sei un uomo peloso, gratti le mani con i peli, si intersecano. È una cosa veramente orrida e orrenda. Fatti a toccare i capelli in continuazione a lisciarti 20 minuti. Ti viene le bue. L'Alvizio. Sì, chi lo sa se Alvi sono tutti i prograttini. Ma che sono fatti in quattro... tanti capelli. È vero, sì, no, ce non sono fatto ce ne sono per i però. Sì. Di tristezza, non ce ne sono per i fatti. E poi io sono un calvo, ma chi te l'ha detto sulla pelle? Guarda, questa qua è una parrucca. I calvi sono tutti prograttini. Hanno esagerato, hanno esagerato. E si sono ritrovati con queste buche. Ma perseverano anche, c'è un sì, continuo. E in questo caso. Se io ho visto uno prograttini calvo di più, già più la fronte. Partita dal naso. Gratta, gratta, gratta. E si consuma! E le donne? Le donne chiamano i calvi. E beh, anche loro stanno in quel 50%. Esatto. Perché il 50% delle donne italiane ama i calvi e sono lo stesso 50% di donne che ama i grattini ed è lo stesso 50% di donne, beh, che se ne va al mare e poi rimanete pazzi, ragazzi. Sì, però ci sa la peli e contro grattini, tutte e due. Cioè, vedi la peli. Guarda, siete autocrati e rimanete a casa. Ma che quante cose volete avere? Gli estranei che andiamo in vacanza, non ci tocchiamo per niente 10 giorni, ognuno per la sua strada, si viaggia, si beve, eccetera. Se mi tocca il focattino, uno schiaffetto. In realtà è fantastico. Siamo due pellegrini in viaggio, non ci tocchiamo. Questi pellegrini, purposo, non si va a pellegrini, si va. Andiamo in pellegrinaggio, nella Mitteleuropa. A Mitteleuropa. Mitteleuropa. Poi ve lo racconto dove siamo stati in Malta. Comunque, noi ci si fermerà anche a qualche barretto, no? In quella della terra dei mulini, no? La terra dei mulini. Nella terra dei se mulini. Se ti danno il latte più? Lo bevo, volentieri. No, no, no. Perché? Non si può. Perché? Perché il latte più è il nuovo strumento in realtà che utilizzano che utilizza la criminalità. Perché? Latte più, ma alimenti una sociologa, lo sai che adesso alberoni, la nuova sono molto alberoni stasera, la nuova sono criminalità calvo, si sono sta calvo. Occupando non tanto più di sostanze stupefacenti o cosa, ma perché di specie mi è uscita una stupefacenti? vai demacerata? Salutiamo tutti gli ascoltatori di Macerata, grazie. Ci sono tantissimi. Ragazzi, questa cosa del cibo ve la dico un'altra volta. Perché adesso la puntata va a finire così, una cosa seria, adesso non la leggiamo perché qui l'atmosfera è più ludica. Vi dico un aneddoto che per le vostre vacanze, nei vostri viaggi, lo potete riutilizzare, copy free, Creative Commons, per tutte le vostre vacanze. Stanick conosce questo aneddoto, che è un fatto vero. Raccontato da un mio conoscente che dice di essere un uomo in realtà molto affascinante, uno che con le donne lui si vanta che proprio ce n'ha quante ne vuole, due, tre fidanzate, la manca in discoteca, tutti per lui, eccetera, eccetera. Si vantava di questa cosa. Mi raccontava che però il problema delle donne in discoteca, come diceva la canzone di Jovanotti, se non sbaglio, le vedi poi la mattina, sono tutte quante brutte. Allora è successo che in discoteca, nelle Marche, nei pressi di Macerata, va a ballare, inizia a ballare con questa ragazza, comunque era molto carina, e la cosa, due bicchieri così, tic e track, finiscono insieme a letto. E lui dice che è uno appunto che è molto attratto dalle apparenze, dall'estetica, però dice che guarda che ci sono alcune cose che in realtà nel sesso puoi essere bella quanto ti pare, ma ti possono fare smontare tutto, tutto l'entusiasmo, l'erotismo. Perché questa ragazza di Macerata, a un certo punto, che cos'è? Sta morendo un altro. Cazzo, la sai, no? Te l'ho raccontata già, no? È bellissimo. Diciamolo. Insomma, questi tizi qua stavano attrezzando dopo la discoteca. Stavano scopando dopo la discoteca. nel pieno dell'enfasi, lei è gasatissima, in maceratese, penso, insomma, in marchigiano tosto, gli dice a lui, testuali parole, spiandame! Dopo questo spiandame, cioè toglimi le radici, spiantami, toglimi le radici, tirami fuori dal terreno, lui mi ha ammesso che a un certo punto non ce l'ha fatta, gli è andato giù tutto e non c'è stato verso di rialzarsi, niente. Le parole sono importanti. È la prima volta che mi succedeva una cosa, una defiance così, ma una defiance totalmente linguistica, perché le parole sono importanti, e di fronte a questa parola con questo accento particolare non c'è stato verso, cioè è finita così. Questa ragazza, in realtà non conscia di questa parola, che per lei magari nel suo territorio era normale anche in questo accento, ha provocato una crisi fisica a quest'uomo che a spiandame è andato completamente giù e non si è ripreso. Care donne italiane, soprattutto se come me venite dai paesini e avete un po' un accento forte, se andate in vacanza e volete attrezzare, attenzione alle parole, attente alla dizione, non dite cose del genere che potrebbe essere deleterio. Molto deleterio, molto molto deleterio. Allora, Hans ci dice che a questo punto qui ci attrezza una canzone e noi siamo molto contenti di attrezzare questa nuova canzone dei Lingerie. Bravissimi. Che abbiamo già sentito due canzoni in questa prima serie di Parla come scrivi, giunto alla puntata numero 17, e sono Lutero e Popolare. Invece i Lingerie ci hanno mandato questo Buddha Bar che andiamo a sentire e a servirvi proprio adesso. Vai, Ants! Colata, molto obrigada, cae per ignacio, una aranciata, non zuccherata, ma è negroni no. Vogliamo bello fan presto da iena cash, sta gente carisca comincia, sto con filo d'aspetto con papà. Vogliamo bello fan presto da iena cash, sta gente carisca comincia, sto con filo d'aspetto con papà. Oh papà, ben volentieri fumo di quanto, faccio la fila per la tequila, puro Mexico. Ci visto laggiù, sì tu, si è manato sì tu, laggiù, ma ci rista così o dopo da po'. Uè, che ci visto laggiù, sì tu, ma si è manato sì tu, laggiù, ma ci rista così o dopo da po'. Oh, da po'. Molto obrigada, cai pirignaccio, un'aranciata, non zuccherata, ma il negroni no. Vogliamo bello con presto da viena a casa, sta gente carisca con mancia, sto con filo da aspetto, dopo dopo. Vuoi che ci visti laggiù? Sì tu! Si è manato sì tu! Laggiù! Ma ci vista così, o dopo dopo! Oh putabà! Oh putabà! Io volevo dire una cosa, no? Con tutti i morti che c'erano, proprio dopo putabà! Lingerie con Buddha Bar, il Negroni no, magari a noi siamo anche bevitori di Negroni, l'Arsenio bravo dissentirà un po' da questo, ma sono sempre forti i Lingerie. Mentre poi, prima, e adesso arriva in sottofondo, vero Hans? Abbiamo Paolo Sereno. Sì, Paolo Sereno. Che sai che bisogna, Paolo Sereno, tu lo conosci? Personalmente? No, non personalmente, però... Hai dei contatti? Siamo amici. Non ci siamo mai visti. Avvisalo, no. Perché lui sta... lui ha un concerto il 21. Esatto, il 21. Sì, no, volevamo ricordare Paolo Sereno di stare attento. Di stare molto attento. Che il 21 luglio, il 21 lui è luglio, a San Severino Marche. Sì, perché da quelle parti... queste... Donicciole, spiandame! Paolo, non... cioè se incontri una signorina di quelle zone, e dopo il concerto del 21 luglio, ecco, cioè, corteggiano in un'altra, magari Francia, però o comunque sia, stai attento. Non tieni... è che sono tutte così, adesso non ghettizziamo le... Però ecco, vabbè, a un certo punto, alzare il volume, sì, se capitasse, e non senti la voce. Insomma, insomma, ragazzi, e quindi siamo con sospiri. È tempo sospiri. Di vacanze, allora. È tempo di vacanze, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, che chiudiamo. Chiudiamo dicendo, io voglio far leggere al sociologo quel pezzettino che mi diceva prima, tratto dalle luci della centrale elettrica, il blog del gruppo che abbiamo sentito in apertura. Abbiamo sentito loro, abbiamo sentito Iodio su tela, abbiamo sentito i Capuleti e abbiamo sentito Aurora, i Lingerie. Abbiamo sentito anche i Milaven, naturalmente, che ci fanno sempre da sfondo con le loro bellissime, bellissime canzoni. E io ti volevo far leggere questo pezzo, poi chiudiamo con i Decay, mamma morfina, anzi prima poi ci salutiamo tutti. Questo pezzo che si chiama Quando i vecchi dissero e gli squilli del telefono coprirono, sempre da questo blog che ci piace molto, anche come scrivono loro. Adesso chiedo anche a Hans se prima di andare via lui sta già attrezzando tutte le sue valigine, ma attrezzandolo dico in continuazione, mi sono, come si dice, Livizzato. E volevo dire a Hans, se ci trovava un, poi devi attrezzare un bel nome, cioè vabbè, proprio sto attrezzando una cena, senso che sto attrezzando. non è male, no. A me piace di più il termine livizzazione, in contrapposizione con la balcanizzazione. Allora dice Hans che l'ha trovato, ha ripreso un classico, Drink a Pint of Blood a Day dei Milaven, che ci mette adesso e ci dice di poter partire in lettura quando la si vuole. Hans o no? Dice di sì. I'd never seen a man so broken up. Ripped apart. I've seen horrors that you've seen, but you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. Non brilli certo in pulizia, ma tanto chi ti bacerà mai? Iniettarsi della camomilla per cercare di addormentarsi, sentirsi dei coglioni ad essere senza soldi e spendere 6,50 € per prendere una rivista. To those who do not know. Con una recensione per farmi fare una bella figura con me stesso. E Sonic Youth suonano mentre io sono al bar, a lavorar come le star. E Petra studia un linguaggio che in tutto il mondo conoscono solo in un centinaio nei nerds. Tra un trionfo e l'altro, gli anni bisestili non arrivano mai, le mie permalose registrazioni. A me mi. Ti vendono le sigarette, le polacche, in Irlanda. Io e suo zio siamo lo zimbello di Cork. Un assorbente in tasca, una caccia al tesoro nel call center. Che mi va via la voce, il mio fascino del falso modesto. Le mie paure personali, il mio microcosmo. We left the camp after we had not given children. Concentrato solo su di me, a me mi, i vicini che mi bussano dal piano di sotto quando attacco il distorsore. Il loro soffitto, che sarebbe poi il mio pavimento. Rapinati, i visitors, a uno io esplodo i proiettili destinati ai vostri crani. Io lo faccio con le mie magliette sbiadite. Puntata numero 17 in filone d'arrivo, eh? Il vagonaccio sta per ripartire. Ci sarà una puntata numero 18 in cui vi saluteremo, una puntata veloce magari per riprendere un po' le file e dirvi ciao in faccia all'estate lugliesca che finisce agostana, che deve cominciare. Io sapete che faccio, saluto Hans che vedo che ha sbattuto la porta prima, ha fatto anche incazzare e vi saluto tutti voi. Che altro dire se non passarvi la voce del sociologo di Liv? A me mi piace andare in vacanza. A me mi piace andare in vacanza. Insomma, che a me mi sa che mi ci vuole ancora un'altra mesata per andare in vacanza. E a me mi sa che ci arrivo con le ossa rotte. A me non si dice. Ma che se si dice solo mi della stessa ossa, perché mi sa che non cambia nulla, perché si rimane qua ancora per diverso tempo in ragazzi, questo caldo luglio. E allora fate questo, andate in vacanza, scaricate le nostre puntate sul podcast e sulle spiagge dorate di tutto il mondo, ascoltateci in podcast, perché un po' di parla come spiglia anche sulle spiagge ci sta da Dio. Sì, ci sta benissimo. Non mi toccare, non fate i grattini, non fate i grattini. Allora, fate i grattini. Nel 2050, ragazzi, quando ci riascolteranno sul podcast, la società terrestre sarà divisa sì. Tra i pro grattini ancora e ci sarà una guerra per i grattini. Sì, e quelli pro grattini sì. E quelli contro quelli grattini. Quelli pro grattini con un mal di psoriasi alle braccia, sì, di infezione. Una guerra mondiale, non ci sarà più la guerra tra religione, ormai sarà passato. Che ci fanno? E allora se ascoltate questa trasmissione in podcast, evitatelo. Evitatelo. Noi vi lanciamo qua dal passato. Dal 2007. Siamo nel 2007, signore del 2050. Fate l'amore, non fate la guerra. E poi dai, fatevi anche gratis. Lo sapevo, dai. Allora, tutti quanti. Buonanotte a tutti. Buonanotte, buone vacanze. Man Morphine, DK, vai, ce la mettiamo da soli, che è andato via. Hanging on and you don't feel so sorry. forgive my sin. You feel me hold by the starfy weak sheet. She's healing my soul. She prepares me to eat. I'll push you away. I'll heal you away. She's loading. Just begun. So it's going on. I'm not alone. My mom thing. Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale.